La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è stagnante come in un ufficio dell'era bresnieviana, Kappa e Drago parlano di pornografia. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Allora, ero lì all'internet point dei tacchini, questo qui dietro, no? Stavo navigando in internet e si è aperto uno dei soliti siti pornografici di internet. No, Drago, guarda che non si aprono da soli, si è aperto i soliti siti pornografici. Si apre, no, li devi aprire tu. Lo sanno tutti che si aprono da soli. No, tu sei lì, guarda, ti apre il pop-up. No, ma che pop-up? Pop-up. Drago? Ma no, no, per aprire un sito internet bisogna scrivere l'indirizzo di quel sito nella barra degli indirizzi. Oppure clicchi su un link che punta a quell'indirizzo, a quella URL, capito? Ma che ne so, metti che si sia aperto da solo, io ero non volevo che si aprisse. Sì, mettiamo che si sia aperto da solo. Allora io ero lì tranquillo in un sito di finanza, di economia, mi si è aperto improvvisamente questo sito pornografico e c'è una foto di questa bella ragazza giovane, che era ancora vestita, molto carina. Sotto la foto c'era la didascalia. Clicca qui e guardami fare di tutto col mio ragazzo. Bello. Quindi? Infatti ho cliccato, ho messo il numero della mia carta di credito. Ah, hai pure pagato. Ormai che c'era, insomma, c'eri. Visto fare di tutto. Si è aperto da solo. Anche la carta di credito si è funzionata da solo. Effettivamente c'erano le foto di lei in questo sito, della tipa, che faceva col suo ragazzo le cose più disparate. Ma cioè tipo? Scartavetrava le finestre, dava il bianco alle pareti, giocava a pallavolo, faceva karaoke, portava a spasso. Allora, sei pronto per un'altra lezione di storia della musica? Sì. Allora, eravamo rimasti ai Sound Machine. Dopo i Sound Machine si entra definitivamente negli anni 70. E devi scriverti questo nome. Scrivi Genesis. Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks, Steve Hackett. Hai scritto? Ecco, i Genesis erano un gruppo progressive. Allora ci sono due momenti precisi nella storia dei Genesis. Quello progressive con Peter Gabriel e quello pop senza Peter Gabriel. Ma tu lo sai chi è Peter Gabriel? Quello che ha cantato la canzone Biko. Dico, te la ricordi, no? La sai quella lì? Sì. Ah, ecco. Allora, canticchiala un po', eh? Patero Olive. Ah, no, Patero Olive. Allora, tu non l'hai sentita. Non è vero che la conosci. Allora, io adesso cosa ti faccio? Io ti ripeterò un collater, ricordo che l'altra volta hai detto che capivi. Adesso non hai capito, eh? Dudin! Dudin! Rungl! Rungl! Hai capito? Sì. Adesso sì, dopo le roncolate, però. Ecco. Adesso stai attento. Sì. Allora, perché i Genesis erano grandi musicisti, eh? Erano giovani, ma quelli facevano le cose sul serio, eh? Studiavano la musica e poi trasgredivano le regole. Adesso invece voi, sai cosa fate? Trasgredite le regole e poi non studiate niente lo stesso. Ecco, ma siamo alternativi. Ma dove alternativi? Se non sapete niente. Voi siete alternativi perché non potete essere altro. Invece negli anni 70 essere alternativi era una scelta consapevole. Dico, adesso noi conosciamo le regole ufficiali e adesso le trasgrediamo, perché solo se conosci trasgredisci, se no allora trasgredisce chiunque, uno che basta urla nel microfono e oh che bello, che trasgressione, e no, capito? Questa è una cosa importante, sì, che nel 70 si spaccava tutto, sia materialmente sia, come dire, concettualmente si spaccava l'arte, hai capito? La musica si spaccava, la tavolozza della musica era più ricca di adesso, adesso tu lo sai bene come adesso, attività omicida coordinata, attività motoria incontrollata, dalla coscienza in sua presenza si manifesta durante il sonno. sonnambulo, ti uccide senza dirtelo, e forse non sapendolo, non è condannabile, perché è un killer labile, sonnambulo infallibile, lui entra nei tuoi sogni, e tu non ci sei più. La fabbrica di polli. Però Drago, bisogna dire che da quando il colonnello Unghiute si è sposato con l'amministratore delegato, qui la vita è sicuramente più tranquilla. Tranne che forse per i polli in batteria, per loro non è cambiato molto. Però perlomeno non ci sono più quei brutti ceffi dei mercenari belgi che davano fastidio a tutti. Già. Comunque che l'amministratore delegato fosse un tipo originale me ne ero già accorto. Ti ricordi, K, quando cercava di convincermi a fare il bacio del soldato? Il bacio del soldato? Cos'è? Ma come, non ti ricordi? No. C'eri anche tu, dai, mi dicevi, sì, no, ti ricordi. Si parlava di cure per il mal di testa e di Dixie, la maitresse episcopale qui della fabbrica. Sì, forse. È stato un sacco di tempo fa. Sì, ma non preoccuparti, perché David Lynch dice che andare a zonzo per il tempo non è un problema. Vabbè, se lo dice Lynch... Il mal di testa non si attacca, si attacca solo attraverso il bacio. Ho mal di testa. Vuoi vedere come si fa a far venire mal di testa anche a te? No, grazie. Perché? Cioè, tu concentrati su questa cosa che ti dico adesso. Tu prova a chiudere gli occhi. No, aspetta, immagina di chiudere gli occhi. Lascio, lascio, perché no, vieni, mi dice chiudi gli occhi, apri la bocca, non vorrei mai... No, non dico apri la bocca, quelle robe lì... Dimmi la verità, Allora... Se tu adesso chiudi gli occhi e tu sai che davanti a te ci sono io e Dixie, tu ci vedi, ok? Sì. Poi chiudi gli occhi e sai che uno di noi due adesso appoggia le sue labbra sulle tue, d'accordo? D'accordo. Aspetta, d'accordo. Non fare quella faccia, ok? E sono io che appoggio le labbra sulle tue labbra dopo che tu hai chiuso gli occhi e non Dixie, non interrompermi, ok? Sì. Poi, come nel gioco del soldato, io e Dixie ci allontaniamo. Tu riapri gli occhi e io e Dixie facciamo così col ditino, va bene? Beh, io allungherei le mani. E no, tu non puoi fare niente, non puoi fare niente. Non puoi allungare le mani, non puoi aprire gli occhi. Io mi sono fatto la barba perfettamente, quindi che differenza c'è? Non c'è nessuna differenza. Quindi il fatto che tu all'inizio di questo discorso abbia detto ah no, il bacio, eccetera, eccetera, è una tua costruzione mentale. Lo so, è un mio limite. È un tuo limite, è un tuo fortissimo limite. Drago! Cosa mi dice? Drago! Cosa mi dice? Aiuto, K, non puoi. Io su queste robe non ce la faccio. Bacia me! E che cosa ti cambia? Ah sì, e che cosa cambia? Chiedeva pure. Vabbè, Drago, dai, ormai l'amministratore delegato sarà tra le braccia possenti del colonnello Unghiute e tutti e due staranno vivendo una fantastica storia d'amore, un'incredibile luna di miele, e poi quando Unghiute si sarà stancato lo farà spellare, lo farà sezionare e infine se lo mangerà. Credo che questo faccia parte di un rito africano della fertilità o qualcosa del genere, quindi... Buon appetito. Sei volgare. Come sono volgare? Non si dice buon appetito, Drago. Ma non perché? Si dice, perché semmai si dice... Serviti il tuo pasto, cowboy. Che cosa succederà adesso? Si avvereranno le fosche previsioni sul futuro del matrimonio tra il colonnello Unghiute e l'amministratore delegato? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo arrembante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Come mai, come mai, sembra un film con gli operai. Come mai, sembra un film con gli operai.